9 in punto. La politica nel tunnel. Però a me mi sembra che questi partiti qua, tutti e tre, stanno giocando con le figurine. Te ne do due, me ne dai una, te ne do tre, te ne do due. Che la piantano e dire, lei non siamo qui mica a vendere le noccioline. Voi siete lì per noi, non per voi. Ma fate qualcosa in fretta, perché l'Italia sta morendo. E io sono uno di quelli. Ed è sempre col grido di dolore, di rabbia del nostro ascoltatore Angelo della provincia di Bergamo. Io ormai non so quant'è che la teniamo, insomma sarà più di un mese. Comunque siamo al 51esimo giorno di ingovernabilità e forse tra oggi e domani si inizia a risolvere qualcosa, perché si vota, il Parlamento vota dalle 10 di questa mattina per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica, e forse uno sbocco a questa crisi politica ce l'avremo. Come si diceva in apertura, nell'anteprima, oggi incontriamo il Ministro dello Sviluppo Economico Corrado Passera. Buongiorno di buongiorno nuovo a lei, Ministro. In studio con noi anche Fabrizio Forché, Vice Direttore del Sole 24 Ore, che buongiorno. Ci aiuterà e accompagnerà in questa puntata, insieme a voi che potete telefonarci all'800240024, scrivermi su Twitter se volete, Simone Spezia, oppure sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/9in.radio24. Ministro, togliamoci il dente subito, parliamo un attimo di politica, così poi andiamo sulle cose importanti, quelle che segnalava Angelo. Allora, abbiamo accennato poco fa a quello che ci diceva, insomma, no? Potrebbe essere l'elezione del Presidente della Repubblica, anzi dovrà essere inevitabilmente lo sbocco di questa crisi. Lei ritiene che si possa andare a votare molto presto e che questo possa essere un pericolo per il nostro paese? Ma io mi auguro che succeda quello che invece dovrebbe succedere. Presidente della Repubblica, Parlamento che si mette in moto, che sa esprimere un governo che abbia una prospettiva sufficientemente lunga per fare ciò che serve, perché non si può continuare a vivere con prospettive a breve dove non si fanno poi le cose che servono per il mondo delle famiglie e il mondo delle imprese. Quindi non vedo in nessun modo un valore nel tornare a votare subito a breve senza avere risolto nessuno dei problemi. Ci può essere un accordo largo su cose da fare, ripeto, sia per imprese che per famiglie, sia per le riforme istituzionali, e poi se non si riuscirà ad avere un governo di legislatura in occasione di altre tornate elettorali magari tornare a votare. Però gettare la spugna senza fare il proprio dovere questo Parlamento sarebbe a mio parere un errore. Ritiene che i mercati ci punirebbero in quel caso, e insomma in realtà fino adesso ci hanno lasciati abbastanza tranquilli. Sì, i cosiddetti mercati in questo periodo credo abbiano riconosciuto il fatto che comunque questo è un paese che si è messo in sicurezza, si è rimesso in binario dal punto di vista dei conti, della solidità, che è un aspetto di quello che bisogna fare, perché poi ovviamente c'è la crescita, però viene riconosciuto che è un paese che ha risolto i suoi rischi dal punto di vista dei mercati finanziari. Certo che se dovesse passare la convinzione che il nostro paese non riesce a esprimere una maggioranza e una governabilità, l'opinione potrebbe diventare molto più negativa. Fabrizio. Ma il ministro dice appunto che il paese ha riconquistato una credibilità sui mercati internazionali. In realtà sappiamo tutti che questa credibilità è molto in bilico, e la preoccupazione forte sui mercati internazionali oggi non è legata tanto alla tenuta dei conti pubblici quanto alla crescita. Lei ha guidato un ministero che si chiama il Ministero dello Sviluppo, in realtà questo governo ha operato bene sul fronte del rigore dei conti, non è riuscito in quello che erano i suoi obiettivi iniziali, il rilancio della crescita. Io ricordo sempre che il primo provvedimento, quello che abbiamo chiamato il Salva Italia, in realtà nell'intitolazione formale del provvedimento aveva al primo punto il rilancio della crescita, era al secondo punto era il rigore e poi l'equità, ma al primo punto aveva il rilancio della crescita, il primo provvedimento del governo Monti. Cosa è che da questo punto di vista non ha funzionato? C'è un'autocritica da fare da lei come ministro dello sviluppo, c'è un problema più generale di sensibilità a questo tema del governo e quindi che chiama in causa Palazzo Chigi? No, io credo che la prima condizione comunque per assicurare la crescita è di non avere un paese o un'azienda, se sia un'azienda, che salta in aria, e il rischio di saltare in aria alla fine del 2011, che se ne dica, c'era dal punto di vista dei conti. Quindi il prerequisito per la crescita è comunque essere sostenibili dal punto di vista dei propri conti, dei propri debiti, e questo è stato assicurato. Poi, come lei sa benissimo, perché insomma siete un giornale che ha questa competenza specifica, affrontare dopo 10 anni spesso con più di 10 anni di ritardo le riforme che sono alla base della competitività di un paese e della sua capacità di crescere non è che porta risultati da un giorno all'altro, e questo lo sappiamo tutti, però riaffrontare tutto ciò che riguarda le infrastrutture, l'energia, le regole del lavoro, la previdenza, insomma sono cose che sono tutte alla fine orientate a creare più capacità di crescita, e non si può pensare, e se qualcuno l'ha mai pensato sarebbe stato sbagliato pensare che potessero compensare un decennio perduto. Aver fatto questo grande lavoro sul fronte del riordino ci ha permesso alla fine anche di avere dei risultati di una certa rilevanza, perché aver potuto affrontare finalmente, con l'appoggio anche dell'Europa, la restituzione dei famosi, chiamiamoli, 100 miliardi di debiti nascosti coi fornitori, non ovvio, rispettando anche i parametri europei, è un risultato importante. Faccio solo l'esempio dell'energia, pensi a quello, qual era la situazione, c'era saltato e scappato di mano tutto il tema degli incentivi, già 170 miliardi di soldi degli italiani che potevano addirittura raddoppiare se non ci si fermava. Nello stesso tempo abbiamo affrontato finalmente il tema del liberalizzare il settore del gas, abbiamo cominciato a modificare le norme per far sì che il prezzo del gas piuttosto che quello dell'elettricità fossero legati al mercato, e i risultati col tempo sono arrivati. Cioè, aver riallineato il prezzo all'ingrosso del gas in Italia a quello dell'Europa era il 20% in più, aver cominciato a vedere la bolletta del gas e della luce elettrica che cala, aver messo una toppa e aver riorientato gli incentivi sulle tecnologie italiane, cioè sono cose, il piano dell'energia che non c'era da 20 anni, oggi è un percorso impostato che riporta l'Italia dal punto di vista di un elemento importantissimo di costo come quello dell'energia in linea con l'Europa. Stiamo finendo adesso il decreto sugli energivori, dando la possibilità anche alle piccole imprese che hanno una componente di costo dell'energia importante di avere la riduzione dei costi. Cioè questo alla fine fa capacità e potenziale di crescita. Quindi dire che non c'è stata attività a favore della crescita, certo non ci sono state operazioni a favore della domanda, cioè se ci fossero stati soldi per fare iniziative sul fronte della domanda, ma allora uno non aumentava le tasse, cioè e li avrebbe usati comunque il discorso è lungo, però non mi sembra del tutto giusto come l'ha messa. No, lei citava proprio il provvedimento sui pagamenti alle imprese. Io credo quello sia un po' il simbolo anche di quello che è successo durante quest'anno. Provvedimento straordinariamente importante che si è fatto anche perché appunto sul fronte del rigore poi abbiamo ottenuto, diciamo, in via libera europeo. Nel momento in cui si è andato a scrivere quel provvedimento, il provvedimento in una prima versione è uscito talmente complesso, con procedure talmente complicate, che non c'è stata un'impresa e non c'è stata una rappresentanza d'impresa che ha dato il via libera a quel provvedimento, e si è capito che così com'era non sarebbe funzionato. Poi è stato riscritto e ancora ora ci sono molti problemi ancora da risolvere in quel provvedimento, e speriamo che il Parlamento lo faccia. La sensazione è che nel momento in cui si va a operare, poi almeno in alcune strutture dello Stato, del governo, dell'amministrazione, manchi quella sensibilità per quello che serve davvero all'impresa, cioè la velocità, l'efficacia, l'immediatezza dei provvedimenti per la crescita. Aggiungo ministro a Fabrizio Forché, che giustamente ha il passo del giornalista di quotidiano, aggiungo una domanda brutale da giornalista radiofonico. Ha trovato ostacoli nel suo lavoro? Avete trovato ostacoli nel vostro lavoro nelle strutture dello Stato? Sì, punto. e le abbiamo molto spesso superate. Questo non vuol dire che l'amministrazione sia un blocco, perché poi per mia esperienza diretta so quanto l'amministrazione contiene persone in gamba, gente che vuole poi cambiare. La mia esperienza alle Poste per me è la dimostrazione dell'enorme spazio di miglioramento che c'è e di volontà di miglioramento che c'è nella pubblica amministrazione. Certamente quando si cambiano le cose, quando si vanno ad affrontare problemi accumulati nel tempo, non sempre si trova questa disponibilità, e molto spesso la complicatezza, la non sensibilità al tempo. Perché poi una cosa può essere giusta, ma se succede in un anno e non in un mese, fa totalmente la differenza. E quindi quello che diceva Forché prima è giustissimo: la prima versione, le prime versioni, le prime bozze del provvedimento pagamenti erano oggettivamente troppo complesse, e io per primo sono stato totalmente contrario ad andare avanti in quel modo. Ma ci siamo messi, abbiamo tenuto conto in molti casi dei suggerimenti che venivano dalle associazioni di categoria, ed è molto migliorato. Il fatto di aver messo delle scadenze precise in cui l'amministrazione deve dare delle risposte, deve comunicare degli elenchi, deve dare degli ammontari, è una cosa importante. Aver detto che finalmente entro l'anno, agosto, settembre, bisogna avere il censimento di tutti i crediti ceduti pro soluto, per modo tale da fare una emissione per coprire quelli. Il fatto di aver finalmente detto dobbiamo fare il censimento certificato da parte delle amministrazioni di tutti i crediti commerciali delle imprese nei confronti della PA. Beh, sono cose dove certo non c'è stato da parte di tutti questo grande entusiasmo, però alla fine ci sono. Cioè, il problema dei pagamenti, accumulato probabilmente in 10 anni, adesso trova un suo percorso di soluzione. Non è una piccola cosa. Poi adesso in Parlamento riusciremo a migliorarlo ulteriormente, evviva! Però insomma, il binario è segnato. Sui pagamenti, però, siccome dobbiamo sempre essere un po' obiettivi, ci sono i pagamenti della pubblica amministrazione, ma ci sono anche i pagamenti delle imprese tra di loro. Cioè, se noi vogliamo tornare a essere un paese normale dal punto di vista dei pagamenti, che poi vuol dire che se non ci sono i pagamenti c'è il debito, se le piccole imprese devono andare in banca a coprirsi, eccetera, ecco, anche le imprese tra di loro devono seguire regole che in tutto il mondo o quasi tutto il mondo sono normali, di tempi di pagamento, e che in Italia oggettivamente molto spesso non vengono rispettate. Una questione, al di là, poi magari avremo modo anche con le domande degli ascoltatori di tornare alla questione dei pagamenti. C'è un'altra questione che sta emergendo molto forte, un altro problema per le imprese, in realtà non solo per le imprese, per tutti i cittadini, che è quello della stretta del credito. Segnalazioni arrivate negli ultimi giorni dal Fondo Monetario, dalla Banca d'Italia giusto ieri, e naturalmente da Confindustria, insomma, una stretta che riguarda soprattutto le piccole e medie. Io a questo punto è una domanda che le faccio tanto da Ministro dello Sviluppo quanto da ex banchiere. Come se ne esce? Allora, è un problemone sicuramente, perché i numeri stanno lì a dirlo, e quindi non sarebbe sbagliato non affrontarlo come tale. Fortunatamente non riguarda tutta l'economia, perché sono le stesse imprese a dirci che il problema del credito riguarda una quota, per quanto rilevante, ma certamente non riguarda né tutti i settori né tutti i tipi di imprese, perché poi nel panorama delle imprese italiane ci sono imprese che crescono, che esportano, che hanno patrimonializzazioni adeguate, che non hanno debiti o che hanno facilità di ricorso al credito. Comunque, a parte quello, è un problema grosso. Per risolverlo, secondo me, e giustamente il giornale di Forché ha fatto una serie di proposte molto interessanti, bisogna affrontarlo da tutti i punti di vista. C'è un eccesso di regolamentazione e di prudenza nelle regole, che sicuramente non facilita, che adesso non entro nel merito, ma se volete possiamo discutere. C'è certamente c'era la mancanza di alcuni strumenti fondamentali che abbiamo introdotto, perché adesso la possibilità che anche le aziende non quotate possano emettere obbligazioni, possano non avere più i vincoli che prima avevano in termini di detrazione degli interessi, insomma alcune cose importanti, i project bond, cioè una serie di strumentazione che prima non c'era, adesso c'è, e quindi vediamo molte aziende cominciare a ricorrere direttamente al mercato dei capitali anche senza passare attraverso le banche. C'era un'esigenza caduta fortissima, quella dell'IVA per cassa, che in gran parte è stato risolto, e questo è un fatto oggettivo che è stato. Se riusciamo a smontare una parte dell'indebitamento delle piccole e medie imprese che deriva dai ritardi di pagamento, questo abbassa il debito attuale e quindi apre dello spazio di linee di credito con le banche. Questo sarà forse l'elemento più importante. All'inizio, fuorché accennava al primo decreto, quello Salva Italia, cosa c'era per esempio lì dentro? C'erano i 20 miliardi di garanzie al credito delle piccole e medie imprese attraverso il Fondo Centrale di Garanzia, una delle più grosse operazioni pro credito mai successo, che infatti ha portato a oltre 60.000 aziende che ne hanno usato e che può essere ulteriormente allargato. Quindi noi dobbiamo sapere che un problema così grosso non ha una singola soluzione, è un fatto di strumentazione, è un fatto di risorse, è un fatto di regole, è un fatto di riduzione dell'indebitamento forzoso, e su tutte queste cose dobbiamo lavorare in parallelo. Certo, naturalmente gioca anche quello che lei diceva prima, il fatto che ci sono anche imprese che pagano in ritardo e quindi, certo, creano debiti ai fornitori che non ricevono i pagamenti. Esatto. Questo abbassa il rating e poi è più difficile trovare credito. 9 in punto. Allora, iniziamo a sentire qualche ascoltatore. Iniziamo da Stefano che ci chiama da Roma. Buongiorno. Buongiorno. Allora, prego. Io ho ascoltato il ministro Passera e sinceramente volevo fare una domanda, solo sapere se lui in quest'ultimo anno ha vissuto in Italia o in un altro paese. E mi spiego perché faccio questa domanda, perché la vostra trasmissione dovrebbe avere l'opportunità di, quando invitate ministri o persone che danno dei dati, un contraddittorio, perché le bollette, parliamo di un esempio sull'energia e sulle bollette che il ministro ha parlato di riduzione, ma dove l'ha vista la riduzione? Dove c'è questa riduzione? Io li porto, vi posso mandare per fax, negli ultimi 10 anni vi faccio vedere gli aumenti che ci sono stati sull'energia, sul gas e su tutte le bollette. Allora, il punto è uno solo. Dovete finirla di raccontarci delle menzogne, perché il vostro annuncio che fate di quel signore, io lo sottoscrivo. E le faccio due domande, ministro. Allora, voi come governo avevate possibilità o aumentare le tasse o ridurre drasticamente i costi della politica, perché la Germania non ci ha imposto la linea economica da seguire, ci ha imposto dei parametri da rispettare. Voi avevate possibilità, avete scelto quella più semplice, cioè aumentare le tasse e far pagare a tutti i danni che hanno fatto persone, compresi voi, perché lei, ministro, ha fatto delle leggi a favore delle banche, e se noi oggi siamo in queste condizioni, lo dobbiamo anche a tutti i favori che sono stati fatti, Stefano, alle banche. Stefano, però mi scusi, le chiedo semplicemente di essere breve, cioè il ministro è qua, come ha sentito il contraddittorio lo fate anche voi, però per cortesia sia breve, per il semplice fatto che ci sono altri ascoltatori, anche loro tra l'altro con posizioni critiche, li vedo qua perché poi mi scrivono insomma un po' il tema delle domande, me lo scrivono insomma, quindi però chiuda rapidamente. Ultima osservazione e chiudo. Allora, adesso ci spieghi per quale motivo un imprenditore italiano che va a chiedere un finanziamento, un prestito alla banca, deve pagare un minimo di 7-8% di tasso di interesse, come fa con un imprenditore tedesco che, se va a chiedere lo stesso prestito, paga il 3,5%. E con questo la saluto, finitela di raccontare delle menzogne. Bella. Arrivederci. Grazie Stefano, sentiamo anche Dario da Roma e poi facciamo rispondere il ministro. Dario, buongiorno. Buongiorno a tutti. A me piace molto che ogni volta che sento parlare i politici di questo governo, cioè i ministri di questo governo, dicono che hanno fatto molto bene. Hanno fatto molto bene fino a quando dovevano levare alla classe, al popolo, e lì ci sono riusciti perfettamente, hanno aumentato la pensione, l'età della pensione, hanno diminuito i soldi della pensione. Come dovevano toccare la classe dirigente erano diritti acquisiti. Io ho iniziato a lavorare, sapevo che dovevo andare in pensione tra i 60 e i 65 anni. Adesso non è più così, adesso non prenderò più quella cifra, io prenderò meno di 500 euro, che praticamente sono quelli che danno anche la pensione sociale, sono un commerciante. Qui non si vede sbocco per come riuscire a far ripartire questo commercio, se ne disinteressano, però non hanno toccato gli intoccabili, sempre più milionari, miliardari. L'ho sentito da voi, una signora che è andata in un posto a cercare un appartamento, me ne dia tre, ma parlava di appartamenti. Io non ce la faccio aiutare mio figlio, non a comprarglielo, ad aiutarlo. Ho 53 anni e sono 33 che sto dentro la mia attività. Grazie Dario, aggiungo che anche qualche post che ci scrivete su Facebook, vi ricordo la pagina www.facebook.com/9in.radio24, c'è anche qualcuno naturalmente che ci dice quello che ci ha detto il primo ascoltatore che abbiamo sentito, che ma insomma, ma dove vivete? Ministro. Allora, è importante rispondere a questo tipo di domande, quindi cominciamo con signor Stefano. Il fatto delle bollette non è un fatto teorico. Essere riusciti con l'ultima bolletta, quella di fine marzo, a segnare un meno 4,3% nel gas, il fatto di avere insieme all'autorità comunicato che finalmente dopo tutti gli interventi fatti, sono stati necessari tanti interventi nel corso del 2013, la bolletta scenderà almeno del 7%, speriamo anche dell'8%, è un fatto. Certamente ci è voluto del tempo, si è dovuto intervenire su tanti sprechi che erano anche sanciti da legge, si è dovuto introdurre molta più liberalizzazione del mercato, si è dovuto introdurre delle norme che legavano i prezzi ai prezzi di mercato e non soltanto ai contratti di lungo termine dei grandi fornitori. Faccia conto che una cosa molto importante che è successa, l'accennavo prima, i grandi utilizzatori e comunque il mercato all'ingrosso del gas in Italia portava dei prezzi di quasi il 25% superiori a quelli europei. Quando siamo arrivati, oggi siamo praticamente al pareggio, quindi è un recupero importante. Mi scusi Ministro, però le chiedo di non sottrarsi alla questione di fondo che hanno posto questi ascoltatori. Prego. Che è una questione di fondo su quello che dite e sulla realtà del paese, cioè loro dicono no, ma la realtà del paese, ma di più, cioè prenda adesso, io non posso parlare a nome di ciascun mio collega, però io posso parlare di me, così come dopo questa trasmissione vado alla Confartigianato, io tutto questo periodo l'ho vissuto in contatto strettissimo con imprese, imprenditori, associazioni di categoria, prendendomi quando necessario le giuste critiche, ma comunque sempre confrontandomi. Quindi questo, la lontananza, il fatto di aver sollevato per primo, uno tra i primi, un tema gravissimo che è quello del disagio occupazionale vero, perché fino a qualche mese fa, diciamo un anno fa, si parlava soltanto dei disoccupati, che sono una cosa importante, sono già una cifra molto rilevante, ma sono solo un pezzo del disagio. Io ho sempre detto, lo dico da anni, lo scrivo e l'ho fatto come ministro dal 2011, dobbiamo tener conto degli inoccupati, cioè quelli che non cercano neanche più lavoro perché sono scoraggiati, da coloro che hanno che hanno apparentemente lavoro ma sono in cassa integrazione, coloro che sono occupati ma hanno un lavoro insufficiente. Noi ci siamo fatti un indicatore di cui spesso parlo e che porta il numero delle persone che hanno paura del loro futuro perché non hanno un lavoro sufficiente, che va nell'intorno dei 7 milioni e mezzo di persone. Cioè, quindi non solo sono d'accordo, ma non solo è giusto quello che il signor Stefano diceva, ma dobbiamo proprio quantificare per poter poi agire. Ogni elemento poi che fa economia e che fa crescita, molto spesso è un insieme di cose complesse che devono essere affrontate in tutte le loro componenti. Cioè se ci si limita agli annunci, se ci si limita alla superficie delle cose, poi non si risolvono le cose. Per poter arrivare al calo delle bollette di marzo, abbiamo dovuto lavorare per 12 mesi su un'enormità di normative. Se siamo riusciti a mettere in moto infrastrutture per 45 miliardi, si è dovuto lavorare sugli strumenti di finanziamento, sulla defiscalizzazione, sulle norme per le autorizzazioni, sulla Corte dei Conti, cioè delle cose che ammazzano, che non danno soluzioni a breve. Devo dirle una cosa, Ministro, che è abbastanza divertente, per certi aspetti sconfortante, questo paradosso per cui la burocrazia non solo blocca le imprese e i cittadini, ma a quanto pare blocca anche il governo. No, ma guardi, l'azione del governo. Però anche su questo, io figuri se non sono d'accordo a dire che c'è una parte della burocrazia frenante, però molto spesso la burocrazia, cioè l'amministrazione, applica delle norme. Cioè non è per cattiva volontà, bisogna cambiare le norme. Cioè, ai tempi della posta, se non cambiavamo quei 10 metri di regole stupide che c'erano, le lettere non sarebbero mai arrivate. Non era cattiva volontà del postino, ma se il postino non aveva il motorino o se non c'era il terminale nell'ufficio postale, non poteva funzionare, bisogna riorganizzare, e tante di queste cose si possono fare. Vorrei però rispondere a tutte le cose che mi ha detto il signor Stefano. La scelta tra maggiori tasse e riduzione dei costi della politica. Cioè, quando all'inizio l'Italia rischiava di non avere più credito internazionale e di vedersi arrivare i commissari a gestire, cioè bisognava dare immediatamente la convinzione a tutto il mondo che il sistema previdenziale sarebbe stato sostenibile, e lì non c'era che passare al contributivo, continuando una riforma che di fatto era già in corso. Introdurre una norma fiscale sulle proprietà immobiliari nell'immediato era l'unica scelta possibile. Certo, poi la riduzione dei costi dell'amministrazione e della politica, però diciamoci la verità, sul fronte del costo di molti aspetti dell'amministrazione abbiamo introdotto alla fine, tra previdenza e riduzione dei costi dell'amministrazione, quasi 30 miliardi di riduzione a regime. Quando siamo arrivati a dire cominciamo a ridurre i costi profondi della politica, le province, quel genere di cose lì, in Parlamento non sono passati. Per quello che ci vuole un grandissimo appoggio popolare poi per andare ad affrontare le cose, perché molto spesso si parla di riduzioni, poi quando si arriva al punto c'è qualcuno che ti blocca. Però guardate che 30 miliardi a regime di abbassamento del costo del mondo della politica non è una piccola cosa. Ecco. Sul fatto dei tassi più alti, perché è importante lo spread? Non è importante statisticamente, è importante perché è un pezzo di margine che bisogna aggiungere al costo della raccolta e quindi del costo dei finanziamenti. Se fossimo ancora a 600 di spread, sarebbero 3 punti ancora in più di costo del credito. Quindi un'azienda tedesca, come giustamente diceva signor Stefano, paga perlomeno 3 punti in meno di noi, e molto spesso questi 3 punti che dobbiamo tutti insieme abbassare sono sufficienti a rendere competitivo o non competitivo un'azienda. Perché abbiamo portato e creato il polo della finanza per l'esportazione in cassa depositi? Perché probabilmente lì riusciamo ad avere tassi di raccolta internazionale più bassi e quindi finanziamento all'esportazione più basso. Ma tutto si tiene, cioè, perché lo spread non è un valore in sé, è perché alla fine è minore costo di finanziamento. Il Dario: io, guardi, non credo che possa, almeno per quanto mi riguarda, accusarmi del dire che noi abbiamo fatto molto bene. Cioè, noi abbiamo fatto una serie di cose che ci eravamo impegnati a fare e altre non siamo riusciti. Per esempio, nel mio caso, avevo proposto di fare un credito d'imposta per gli investimenti in innovazione e non siamo riusciti a trovare i soldi, cioè non sono riuscito a convincere altri miei colleghi a mettere queste risorse, quindi non è che siamo riusciti a far tutto. Però in termini di trasparenza del lavoro fatto, parliamone. Cioè, noi abbiamo appena messo sul sito il documento che userò come passaggio di consegne per il mio successore con quello che abbiamo fatto, si chiama Cantiere Crescita, e ci sono le cose che nelle varie aree di responsabilità del Ministero delle Infrastrutture e del Ministero dello Sviluppo erano nostre responsabilità. Parliamo concretamente, io non so se è bene o male, però quelle cose che ci eravamo impegnati a fare siamo riusciti a fare. L'intervento sulle pensioni può essere considerato troppo forte, forse ci sono degli aspetti che sono oggettivamente stati portati oltre il limite, e magari col tempo e con risorse trovate altrove si possono correggere. Sul fatto che non siano stati toccati gli intoccabili, credo che il lavoro e l'impegno che questo governo ci ha messo sull'evasione, che forse nessun altro ci aveva mai messo, ovviamente va a toccare soprattutto quelli che credo il signor Dario considera gli intoccabili, quindi non mi sembra un'accusa fino in fondo giustificata. Certo, c'è da fare ancora molto di più. 9 in punto. Una domanda di Fabrizio Forché per il ministro Passera. Il malessere che traspariva dalle telefonate degli ascoltatori è palpabile, diciamo, in qualunque occasione in cui noi ci confrontiamo col paese reale. Le imprese denunciano di essere al momento peggiore probabilmente dal dopoguerra, per cui è chiaro che quando il ministro poi rivendica i risultati, quello che è stato fatto, ci si scontra, diciamo, con la realtà del paese, che è davvero drammatica. C'è chi ha detto siamo arrivati alla fine. Io le chiedo, appunto, questa distanza tra quello che lei sente di aver fatto e quello che poi invece non si è tradotto evidentemente nel paese, è attribuibile anche, e torniamo lì, al freno che viene da strutture dello Stato? Penso al disequilibrio che c'è oggi tra il Ministero dell'Economia e quello dello Sviluppo, penso al ruolo predominante della ragioneria dello Stato, e penso, mi faccio introdurre quest'altro tema, anche ad alcuni errori fatti da questo governo. In un momento di crisi come quello che stiamo vivendo, era proprio necessario fare quel tipo di riforma del lavoro? Io ho l'impressione che la riforma del lavoro ha contribuito ad espellere lavoratori dal mondo del lavoro invece che a stabilizzarsi come ci si proponeva. Vabbè, quindi domande non facili che mi sono segnato. Allora, sul fatto che siamo alla fine, lo sapete anche voi, chiaramente non è vero. Un paese che fa quasi 500 miliardi di esportazioni sui mercati più competitivi del mondo è comunque un paese che in tanti settori e in tante categorie del suo mondo imprenditoriale dimostra che la ricetta ce l'ha. Il fatto di essere forti come brand Italia e come aziende in settori che crescono e che cresceranno in tutto il mondo, dalla meccanica all'automazione industriale, dal sistema moda al sistema casa, dal turismo alla sanità, cioè è proprio sbagliato avvalorare una tesi che ha fortunatamente grandi argomentazioni contrarie. Lavoro fatto e risultati. Anche lì credo che i media, questi che voi rappresentate in particolare, possono contribuire. Ci sono interventi che sono serviti per affrontare l'emergenza e che credo siano serviti, viene riconosciuto da tutti. Ci sono degli interventi che aspettavano da decenni, che hanno necessitato grande fatica e che necessariamente daranno risultati, solo in parte nel brevissimo, ma risolvono problemi che non erano stati risolti per tanto tempo. Quelli dell'energia l'abbiamo detto, quelli delle infrastrutture l'abbiamo detto. È chiaro che i 45 miliardi di progetti infrastrutturali che abbiamo sbloccato arriveranno più o meno il 20% all'anno nei prossimi anni, però per evitare che fossero solo annunci li abbiamo messi tutti sul sito, si può andare ciascun progetto, ciascun cantiere adesso si può andare a controllare. C'è il tema che lei dice, c'è una parte dell'amministrazione, lei parlava della ragioneria, che non capisce o non condivide. Allora, innanzitutto anche loro devono applicare delle norme, e qui sicuramente a livello europeo dobbiamo avere la capacità e forza politica del dire che i costi correnti non sono come gli investimenti, che noi dobbiamo come Europa aumentare il budget degli investimenti per tutto ciò che è ricerca, innovazione, infrastrutture, collegamenti. Cioè, l'Europa sta dimostrando lì, certo, lì sì proprio, di non essere coerente in termini di quello che dice e quello che fa. Ridurre il budget complessivo dell'Europa è sbagliato, noi dobbiamo aumentarlo, dimostrare agli europei che dopo aver fatto quanto c'era necessario sull'austerità, adesso sappiamo mettere i soldi anche sullo sviluppo. Mi permette, Ministro, dato che abbiamo ancora 2 minuti e ci sono un paio di domande, la prima è un flash di agenzia che è arrivato da poco, sono le parole del ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble, visto che parlava di Europa, che dice che un'insolvenza di Cipro metterebbe a rischio anche paesi come Spagna e Italia. Concorda con questa affermazione? Ma diamo il senso della misura alle cose. Già ci siamo fatti mettere nell'angolo da un paese che rappresenta il 2% dell'Europa e siamo riusciti a fare un casino del diavolo non avendolo affrontato nel modo giusto, nel momento giusto. Adesso non rifacciamolo con un micro problema come quello di Cipro. Ultima domanda che le voglio fare, poi siamo quasi in chiusura perché so che se ne deve andare, insomma, che cosa farà, la metto così, cosa farà Corrado Passera da grande? Cioè, finita questa esperienza di governo, finita chiaramente l'esperienza di banchiere, che cosa ha intenzione di fare? Ha intenzione di entrare in politica, di impegnarsi in politica? Allora, innanzitutto per adesso sono ministro e fino all'ultimo giorno, come vedete, giorno e notte faccio quello che considero essere il dovere di un ministro. Io a questa esperienza nell'economia della mia vita do tanta importanza, cioè ho lasciato tutto un anno e mezzo fa senza pensarci un minuto perché pensavo fosse mio dovere farlo, e mi sono convinto nel corso di questi mesi che si possono cambiare profondamente in meglio le cose in Italia in tempi anche relativamente brevi. Però non si può più vivere soltanto di brevissimo termine, bisogna avere progetto, bisogna avere un discorso almeno di legislatura. Io non so se sarò come dire, in grado di fare quello che sto dicendo, certamente sarò al servizio, certamente adesso, avendo fatto il ministro dello sviluppo e delle infrastrutture, ho tutta una serie di vincoli che intendo rispettare fino in fondo di riempiego nel mondo privato, e i prossimi mesi serviranno per capire se le esperienze accumulate nel tempo nel mondo dell'economia, dell'industria, dei servizi in Italia, all'estero, nel privato e nel pubblico, ma soprattutto nella politica, potranno essere utili. Io spero di sì. Promette che ce lo viene a dire a noi quando lo decide? Sì, le faccio solo una piccola precisazione. Siccome mio figlio ha messo su un sito in cui si parla di sogni, ci si scambia i propri sogni, i propri progetti, probabilmente lo dico in contemporanea a lei e a mio figlio. Va bene, grazie a Corrado Passera, grazie Fabrizio Forché, noi chiudiamo qua la trasmissione, grazie a tutti voi per l'ascolto, ci sentiamo domani. Ricordati! 73 giorni all'aumento dell'IVA. Però a me mi sembra che questi partiti qua, tutti e tre, stanno giocando con le figurine. Te ne do due, me ne dai una, te ne do tre, te ne do due. Che la piantano e dire, lei non siamo qui mica a vendere le noccioline. Voi siete lì per noi, non per voi. Ma fate qualcosa in fretta, perché l'Italia sta morendo. E io sono uno di quelli. Radio 24. La passione si sente.